d'argento, flacida e lorda, prospero il vento, sul mare luccica, l'astro d'argento, flacida e lorda, prospero il vento. Oh, dear.